la canzone più triste del mondo. Non poteva che scriverla un uomo, con i classici modi di fare, stupidi e irrazionali, per la donna più bella del mondo, che ovviamente ora sta con un altro, uno di quelli che io non sopporto, uno di quelli che siamo l'opposto. E ti giuro mi manchi davvero, che ho costruito una casa coi Lego, e ho provato a viverci dentro, e ho provato a convincermi dentro, che non eri mai andata via, e che non è stata colpa mia, che lasciarsi è una follia, in salute e in malattia, io sarò per sempre tuo, e tu sarai per sempre mia. La canzone più triste del mondo, non potevo che scriverla io che sono da sempre insicuro, di quel che dico e quello che provo, oltre le donne che ho conosciuto, oltre i luoghi che ho camminato, c'è un posto dove ritorno quando mi manchi e sono da solo, perché ti giuro ti amo davvero, che ho costruito un'arma coi Lego, ma non riesco a farla finita, e non riesco a fare finta che non eri mai andata via, e che non è stata colpa mia, che lasciarsi è una follia, tra insonni e nostalgia, io sarò per sempre tuo, e tu sarai per sempre mia. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Tu sarai per sempre una parte di me, dimenticarti sai impossibile. Che non eri mai andata via, e che non è stata colpa mia, che lasciarsi è una follia, tra insonni e nostalgia, io sarò per sempre tuo, e tu sarai per sempre mia. Io sarò per sempre tuo, e tu sarai per sempre mia.